yo, cammia li miei compari, a vita a tornare tutto figlio che vi pigliassi con nassi anni. Fanghe, sì, sì. Palermo, Sicilia, Milano, Roma, Italia, che siamo tutti in capassista vaica. Allora sentime, allora sentime. Chido chi mi aspetta me lo piglio, mi è già appena ma rospiglio me ne pai tu sky tu. Chido come a tocca non lo voglio, no che non lo voglio, no che non lo voglio. E chido chi mi aspetta me lo piglio, mi è già appena ma rospiglio me ne pai tu sky tu. Chido come a tocca non lo voglio, no che non lo voglio, no che non lo voglio. Rispetta la parola, non già vaglio d'altra ancora a casa ed anche d'una sola un posto sotto le lenzuola. E ora, tra povertà e malura, li picciotti sparano, s'ammazzano e si tagliano la gola. Finemule il momento di mi tiri nell'insemula, li forze cacci vonno pina, battene cu specula. Si pigliano l'anima, si ti virano una pecora, da malu politichi lignate che si merita. E predica o papa con le mani in tasca mendica, sorrisi di facciate dietro la facciata medita. E prendila la colpa di tanti morti per l'Africa, per quella che tu chiami ancora tua funzione mistica. Critica la condotta civica, mentre la gente ipocrita è tutto un futti futti. In pratica fai solo retorica, intanto sai che tutto il mondo sta marciando su tu via. Chido chi mi aspetta me lo piglio, mi è già appena ma rospiglio me ne pai tu sky tu. Chido come tocca non lo voglio, no che non lo voglio, no che non lo voglio. E chido chi mi aspetta me lo piglio, mi è già appena ma rospiglio me ne pai tu sky tu. Chido come tocca non lo voglio, no che non lo voglio, no che non lo voglio. E non ci resta di vedere il poco che ci aspetta, si pigliano tutte fanno dopo pure la scarpetta culo piatto chino chino all'orlo della noccia pasta. Questa minchiata che su c'è ancora gente onesta, chi pensa come siamo culminati da sutta, ma da sopra c'è butta su ci mala con nutte qua mutta. Meno pai te carro su squadra, ripigliari picciotti che già sui senti molti che è come siamo culminati giù non sanno, no, no, no. Sanno mangiare bene festa tutto l'anno, no, no, sì. Aumenta fame si ci aumenta lui stipendio, ma i malani arriveranno, sai picchi viru calo tempo va canciando. Chido chi mi aspetta me lo piglio, mi è già appena ma rospiglio me ne pai tu sky tu. Chido come a tocca non lo voglio, no che non lo voglio, no che non lo voglio. E chido chi mi aspetta me lo piglio, mi è già appena ma rospiglio me ne pai tu sky tu. Chido come a tocca non lo voglio, no che non lo voglio, no che non lo voglio. Mi aspetta la parola, non già voglio ed altra ancora a casa ed anche d'una sola un posto sotto le lenzuola. E ora, tra povertà e malura, li picciotti sparano, s'ammazzano e si tagliano la gola. Finemula il momento di li tirin in insemula, li forze cacci con nopina, battene cu specula. Si pigliano l'anima, si ti virano una pecora, da malu politichi li niente casi merita. E come semo cuminati giù non sanno, sanno mangiare bene, festa tutto l'anno, l'anno sì. Aumenta fame, si ci aumenta lui stipendio, ma i malanni arriveranno, sai picchi viru calo tempo va canciare.